sebbene scorrano con lentezza, capaci di allargarsi notevolmente in superficie in senso orizzontale, si rivelano queste correnti impotenti in quello sviluppo, nello sviluppo verticale dinanzi ad un ostacolo di qualche centinaio di metri. In altri contesti, penso un po' al contesto etnografico, le Alpi sono poi state definite addirittura come la soffitta d'Europa, come a indicare una sorta di luogo, la cui unica funzione sembra sia quella di preservare la memoria di quanto veniva superato o accantonato nelle restanti parti dei territori, di pianura. Immagine sicuramente suggestiva, se vogliamo, ed evocativa, ma che sicuramente non esaurisce la complessità, l'articolazione e la ricchezza che nello studio appunto di Ivan Lezzuo, ma come in tutti gli altri che si sono occupati di comunità alpine, è sempre poi emerso, sempre più negli ultimi decenni. Quindi il senso più profondo, direi, del libro di Ivan Lezzuo potrebbe tranquillamente riassumersi in un'unica affermazione che ovviamente può apparire banale, ma che invece non lo è affatto alla luce di quanto dicevo poc'anzi, che anche l'ambiente montano invece ha una storia, ha una sua storia, è una sua storia rilevante. Quello, il libro di Ivan, insomma, in altri termini, dà un ulteriore contributo a quella spinta volta a rivedere una consolidata tradizione che ha pressoché negato dignità storica alla montagna, proponendone, come dicevo prima, un'immagine stereotipata di luogo assolutamente impermeabile ad ogni influsso esterno e refrattario al cambiamento. Il riflesso più immediato di questo atteggiamento pregiudiziale nei confronti dell'ambiente alpino, della sua storia, sono state proprio anche le tante storie cittadine che hanno parlato sì della montagna, ma solo incidentalmente e nella misura in cui questa storia, questa montagna, ha intersecato le sorti della cosiddetta civiltà, di un mondo del tutto estraneo alla montagna, che per lo più ha fatto della montagna stessa soltanto una risorsa, da sfruttare, o sempre, tornando a Braudel, un semplice serbatoio, come diceva Braudel, di manodopera per la pianura. Non appena però questo tipo di lettura ha rivelato tutti i suoi limiti e la riflessione storica si è aperta a diverse valutazioni, il problema della storia della montagna è stato affrontato finalmente nella sua autonomia, con attenzione a quei problemi che sono distintivamente suoi propri e con metodi adeguati a ricostruirne le vicende peculiari. Ne è emersa così, diciamo, una storia pensata, indagata e scritta in chiave veramente montana, con l'attenzione rivolta a problematiche del tutto diverse da quelle che solitamente si riscontrano in altre storie. Basti pensare, ad esempio, e Ivan Lezzuo su questo dedica una parte introduttiva all'approccio di tipo ambientale, con introduzione ai temi propri della storia tettonica, geologica, mineralogica, paleontologica, climatologica, archeobotanica, tante ica, e così via, o l'elaborazione di categorie storiografiche nuove, diverse da quelle della storia della imputabili, riconducibili alla civilizzazione cittadina, in grado quindi di ricondurre l'aspetto antropologico dell'evoluzione dell'ambiente montano ad una storia scritta nel nome dei montanari, cioè dei popoli che vivono e dalla montagna traggono il proprio sostentamento. D'altra parte, il fatto che la montagna sia stata più volte scoperta e riscoperta anche nella sua cultura ad opera del mondo cittadino, impone di confrontare questa nuova storia della montagna con la vecchia storia che di quella tradizione si è fatta a suo modo interprete. E questo è il caso della storia, per esempio, dell'alpinismo, che da ultimo ha contribuito a rivelare alcune vie autentiche di conoscenza della montagna e dei popoli montanari. Infine, la montagna ha rappresentato per l'uomo, e in parte lo rappresenta ancora oggi, un mondo di valori da salvaguardare. motivo che forse contribuisce anche questo all'immagine dell'ambiente montano come qualcosa di immobile da conservare, motivo che riaffiora spesso, direi quasi nostalgicamente, anche nello studio di Valle Zuo e che impone una considerazione. Nel passato delle aree montane, riletto con tutte le cautele di cui abbiamo detto poc'anzi, si conserva traccia di una cultura destinata oggi all'estinzione, proprio perché forse non è stata acquisita consapevolezza di come tale cultura sia scaturita da una storia autonoma ed esclusiva dei popoli montanari. Quindi direi che studi come quelli di Valle Zuo sono importanti anche a riguadagnare, a riconquistare questa consapevolezza utile stessa, anche, utile proprio anche a chi voglia poi affrontare la grande prospettiva di quale potrebbe essere il futuro delle aree montane. E il libro di Ivan Lizzuo contribuisce a ciò, vi contribuisce integrando questa storia autonoma ed esclusiva, approfondendo la conoscenza della comunità ladina di Vinalongo e Colle Santa Lucia nel corso dell'Ottocento, cercando di ricostruirne un quadro il più completo possibile, con sguardo attento alle principali vicende legate a diversi ambiti politico, amministrativo, economico, socio-assistenziale, politico, sanitario e scolastico, poi su quali si dilungherà lo stesso autore. Emerge in questo modo la storia di una montagna non più semplicemente attraversata. Questo è un fatto importantissimo. La montagna rimane un ambiente, un'area grigia, una zona che è solo attraversata, ma emerge da questo tipo di approccio, di studio, l'immagine di una montagna vissuta, dove questo termine intende adattarsi alle categorie interpretative e culturali della popolazione autoctona e non in una prospettiva, come si diceva prima, cittadina. Riaffiorano così tanti aspetti che confutano anche l'immagine di isolamento di questa vallata, come poi di tutte le altre aree che compongono l'arco alpino. Certo, i contatti, lo ricorda nel suo volume Valle Zuo, con l'esterno sono resi difficili dagli scarsi collegamenti stradali, dalla lontananza dei principali centri cittadini, dalla stessa particolarità della lingua, se vogliamo, che vi si parla, ma tutto ciò non si traduce nel rifiuto automatico e preconcetto di quanto sta avvenendo altrove, ma semmai nella costante applicazione di filtri, proprio coscientemente questo anche, di filtri che permettano di adeguare con misura e prudenza i possibili cambiamenti o, meglio, adeguamenti. Sullo sfondo, si agita non tanto lo spettro della perdita di un'autonomia, quindi questa apparente spinta alla conservazione di tipo politico-istituzionale, quanto il timore che il cambiamento possa indurre un'alterazione di quegli equilibri che da secoli regolano la difficile sopravvivenza in montagna. Scatta, in altri termini, nel capitolo dedicato, diciamo, all'economia, lo si capisce, emerge anche nello studio di Valle Zuo, scatta nell'ambiente montano in altri termini, quello che Gauro Coppola, che è uno studioso della storia montagna, della storia alpina, chiama defensive innovation, cioè una difesa innovativa, il tentativo comunque di difendersi anche attraverso l'adozione di piccoli cambiamenti, di piccoli adeguamenti che possano permettere comunque di salvaguardare costantemente il difficile equilibrio, la conservazione delle poche risorse che l'ambiente montano offre. Ecco, sono un elemento questo che, ripeto, può essere letto in molti passaggi del volume di Lezzuo, in quello dell'economia, ma anche rispetto al tema della sanità, che conosco un po' meglio per aver anch'io trattato per il Trentino nella prima metà dell'Ottocento, nonostante, come dicevo, il tono nostalgico che talvolta, ma questo potrebbe essere definita una piccola licenza poetica, che talvolta riaffiora nei confronti di qualcosa che non è più e che restituiscono a questo volume, in un certo senso, quasi quasi direi, mi allargo, direi un valore letterario, fra virgolette, perché in un qualche modo, quando prima parlavo di questa tentazione d'azione, tendenza a pensare al mente montano con qualche cosa che conserva intatti dei valori. Ecco, forse anche nel libro di Lezzuo questa linea di pensare a una comunità, a un ambiente montano con qualche cosa che ha saputo conservare, continua a conservare e vorrebbe conservare i valori della propria storia, della propria identità, ecco, questo si legge, si avverte. Ecco, avrei finito così, grazie. Sì, tocca a me allora adesso parlare un po' del Tirolo dell'Ottocento, nell'ambito del quale si trovava appunto la comunità, il distretto giudiziario di Pieve di Livinallongo con annessa Colle Santa Lucia. L'Ottocento, se possiamo così dirlo, nel Tirolo. Possiamo lasciarlo iniziare proprio col 1814, quando tutto l'intero Tirolo ritorna sotto l'Austria, sotto il regno degli Asburgo, e va fino al 1914, vogliamo forse anche fino al 1918, ma la Prima guerra mondiale, forse è meglio escluderla, va l'Ottocento, dura in pratica esattamente un secolo, anche se non inizia col 1801 e termina col 1900. Questo Ottocento è un secolo di per sé abbastanza calmo, con abbastanza pochi cambiamenti politici, però è un secolo dove gli abitanti del Tirolo devono iniziare a un livello, a un punto molto basso, nel senso che hanno alle spalle circa 10-15 anni di grossi cambiamenti politici. Se solo prendiamo la comunità di Pieve e di Colle Santa Lucia, negli anni tra il 1803 e il 1814 hanno cambiato 4-5 volte appartenenza statale o politica. Fino al 1803 Pieve e Colle Santa Lucia con altre vallate ladine e tirolesi tedesche e anche italiane non faceva parte del Tirolo. Faceva parte di uno stato, di un piccolo stato, di uno stato molto primordiale, che era il Principato Vescovile di Bressanone. Un stato molto legato per motivi tecnici con il Tirolo, ma comunque uno stato indipendente dal Tirolo. Avevano come principe non gli Asburgo, ma come sovrano il vescovo di Bressanone. E questo almeno dal 800 d.C., da più o meno quasi un millennio, facevano parte di questo Principato, o comunque erano all'interno della sfera di potere dei vescovi di Bressanone. Poi nel 1803 passano all'Austria perché i principati vengono soppressi. Trento, Principato di Bressanone entra a far parte adesso definitivamente e anche legalmente del Tirolo. Dal 1803 i Fodommi sono cittadini austriaci o tirolesi, per così dire. Poi nel 1805, 2 anni dopo, il Tirolo viene ceduto alla Baviera e i Fodommi, come tutti i tirolesi, diventano sudditi del regno o del re della Baviera. Poi c'è l'insurrezione del 1809, l'insurrezione hoferiana. Nel 1810 un altro cambio di confine, il Tirolo viene diviso in 3 parti. Una parte passa alla Francia direttamente, nelle cosiddette province illiriche, una parte resta alla Baviera, un'altra parte viene assegnata al cosiddetto Regno d'Italia. E le comunità ladine di Pieve e di Ampezzo faranno parte del Dipartimento Alto Piave del Regno d'Italia. Terzo cambio, per così dire, in soli 7 anni. Poi nel 1900, 18, scusate, 1814, anzi 13 con l'occupazione militare e definitivamente nel 1814 con il congresso di Vienna, il ritorno o l'assegnazione all'Austria. In 11 anni, quattro passaggi di stati, quattro passaggi di confine. In una situazione dove prima, per quasi un millennio, poco si era successo, poco era cambiato. Poi cos'è questo Tirolo? Adesso fanno parte del Tirolo. Il Tirolo è una grande provincia del regno dell'impero austriaco che è suddivisa in varie amministrazioni. Distretto giudiziario di Pieve di Livelongo fa parte del cosiddetto circolo della Pusteria, cioè il Tirolo era suddiviso, la provincia del Tirolo era suddivisa in 7 circoli o capitanati circolari, come dir si voglia, e la Pusteria, che era un grande circolo che partiva dal Brennero, tutta l'Alta Val d'Isarco, comprendeva Bressanone e andava fino al Tirolo orientale, incluso Lienz, e naturalmente anche questa parte un po' discoste, distanti della Ladinia, di Pieve e di Ampezzo, che facevano parte di questo circolo della Pusteria con capitale a Brunico. E questo sarà come dire, una situazione abbastanza stabile per quasi un secolo. Per quasi un secolo, chiaramente, tutta la vita, diciamo, politica verte verso il centro naturale della Pusteria, verso Brunico, passando ovviamente per i Passi, passando per la Val Badia e poi naturalmente verso Brunico. In parte anche qualcosa, soprattutto per motivi religiosi, l'altro centro verso il quale converge la piccola comunità, anche Bressanone, perché è sempre la sede del vescovo e che non è più principe territoriale, ma è almeno ancora principe spirituale e lo resterà fino al 1964, da quando, diciamo, o quasi ultimo collegamento con il Tirolo o su Alto Adige su Tirolo viene a cadere con la creazione della nuova diocesi di Bolzano-Bressanone e il passaggio del decanato di Pieve e del decanato di Ampezzo alla diocesi di Belluno, facendo così coincidere i territori amministrativi anche con quelli ecclesiastici. E questo è questo Tirolo è un Tirolo, diciamo, non è una novità, povero, è un Tirolo molto provato da queste guerre napoleoniche che hanno già iniziato a coinvolgere il Tirolo già nel 1793-94 con il frequente passaggio di truppe che dovevano essere vettovagliate dalle comunità locali, migliaia, decine di migliaia di soldati che passavano tra il 1790 e il 1814, questi anni ci sono stati innumerevoli passaggi di truppe che vivevano dal territorio. I cavalli, gli uomini dovevano essere vettovagliati dalle comunità locali in una zona alpina, montana, dove neanche per la popolazione locale i prodotti bastavano, i prodotti alimentari bastavano e dovevano essere sempre importati. Questo portava un grandissimo peso finanziario, un grandissimo indebitamento dell'intera provincia, indebitamento suddiviso sui vari distretti giudiziari, e che i sudditi dovevano pagare questi debiti contratti nel periodo napoleonico con il raddoppio delle tasse, e che queste tasse poi ovviamente, cioè questi debiti erano immensi, e il pagamento durava sì, almeno 30, se non di più, anni, fino al 1848, forse anche fino negli anni 50 del secolo XIX. E, oltre ad essere una zona abbastanza, diciamo, povera di risorse, senza industria o senza grande artigianato, senza miniere, senza ricchezza, diciamo, naturale, oltre a questa povertà di risorse, anche grossi pagamenti di debiti contratti nei decenni precedenti durante le guerre. E questo è un Tirolo provato, oltre che dalle guerre, anche dall'ultima grande carestia a livello europeo, che nel 1816-17 ha prodotto magrissimi raccolti. Si parla di un breve periodo glaciale, nel senso che c'erano 5-6 anni, o massimo 10 anni, dove il clima si era abbassato, la temperatura si abbassava, pioveva e faceva freddo sia d'inverno, che era normale, ma anche d'estate, così che i raccolti, soprattutto nelle zone di alta montagna, non maturavano, che il grano, l'orzo e tutti i prodotti agricoli, per via delle frequenti piogge e delle basse temperature, non maturavano, e la gente soffriva la fame. Era questa l'ultima grande carestia europea. Un piccolo, sì, una seconda, un'altra, però non confrontabile, carestia poi si ebbe nel 1844-45, ma era nulla in confronto a quegli anni precedenti. Cioè erano situazioni completamente diverse dalle nostre situazioni odierne. Noi soffriamo il caldo, il riscaldamento ambientale, climatico, e in quegli anni si soffriva, c'era il problema di questo periodo freddo, di questa piccola era glaciale, anche se poi non era così tragica, che non durava millenni, eccetera. No, ma comunque anche questo aumentava il problema della povertà, del vivere, sì, del livello di vita, che si abbassava senz'altro. Poi naturalmente la situazione non migliorava, perché c'era poco movimento, diciamo, economico, mentre nelle pianure, soprattutto nella pianura padana, nel Veneto, soprattutto però anche nella Lombardia, la situazione migliorava. Nella zona alpina le cose non miglioravano, non andavano per il meglio. Qualcosa in zone circoscritte, perché avveniva, nel senso che poi con gli anni 30-40 aumentava il transito dall'Austria, dalla Germania verso l'Italia. E poi con gli anni 50 inizia una grossa trasformazione a livello, diciamo, tirolese. Iniziano a far capolino le ferrovie. Nel 54 la ferrovia arriva a Innsbruck, nel 59 arriva a Bolzano, nel 56 a Trento, nel 59 arriva a Bolzano, nel 67 il tratto Bolzano-Innsbruck, la ferrovia del Brennero viene inaugurata, e da allora inizia, diciamo, un periodo un po' più importante, un periodo migliore per l'economia del Tirolo nel complesso. Però fino ad arrivare nelle zone, diciamo, periferiche, nelle valli, ce ne voleva di tempo. Qui la situazione cambiava con l'avvento del turismo. Il turismo che inizia con le ferrovie, ma inizia con, diciamo, la ferrovia della Valposteria, che è inaugurata nel 1871. A Brunico si arrivava in treno, e da lì naturalmente Dobbiaco, soprattutto Brunico, i due centri principali, e lì arrivavano anche i i forestieri, i turisti, no? E questo la scoperta delle Dolomiti, per così dire. È da allora che qualcosa si sente, o c'è un po' di ripresa anche nelle zone più lontane dalle grandi vallate, dalla Val Pusteria, dalla Val Isarco, dalla Valle d'Adigeo, dalla Valle dell'Inn nel Nord Tirolo. Da lì inizia un po' a rifarsi uno sviluppo economico, se non altro perché, per esempio, si poteva andare a lavorare a Cortina e non più emigrare nel Veneto o emigrare nel Tirolo o altrove. Un vero positivo cambiamento si ebbe poi nel 1806-7-1809, quando venne costruita e inaugurata nel 1909, ufficialmente, ma era già transitabile nel 1908, la strada delle Dolomiti, no? E questa strada delle Dolomiti attraversa proprio queste valli ladine di cui oggi trattiamo. E da lì non proprio scoppia, ma lì fiorisce rapidamente un ottimo e un turismo di grande livello. Solo che anche questo turismo dura poco, no? Perché poi c'è 5 anni dopo l'inaugurazione della strada delle Dolomiti, c'è lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il turismo sparisce, cioè il 28 luglio scoppia la Prima Guerra Mondiale, da lì gli ospiti, una stagione che era iniziata a inizi luglio, una stagione veramente da record, però durava fino al 25-26, lì già i primi ospiti, il 28 erano spariti tutti, se ne partivano perché l'Austria era diventata territorio di guerra. Poi non solo la guerra che scoppia nella lontana Serbia e che porta via i turisti, poi nel 1915 la guerra viene in casa propria, per così dire, e distrugge molti di questi progressi che si sono fatti, che hanno caratterizzato gli ultimi anni di questo 800 tirolese che va fino al 1914. Poi, con la Grande Guerra, inizia veramente il secolo XX, del secolo XIX, che ha naturalmente, scusate, XX, non XIX, il Novecento, che ha poi tutta un'altra storia che porta tutte queste comunità in un tutt'altra direzione, che poi sarebbero tema di o sono tema di altri studi, di altri lavori. Grazie. Aduskansna bona sara, vege cum plagei clerue ad alerc balguni ladings, per scurte pro a questa presentazione che nel libro scritto sopra la storia, nia da me fodoma, ma in celadina. Rivolgo grazie alla direzione della biblioteca che per l'ospitalità, per avermi dato la possibilità di presentare questo libro. Un grazie di cuore anche ai relatori per le relazioni introduttive che hanno fatto da cornice a questa presentazione. Un libro scritto da una persona di madrelingua tedesca, scritto in italiano sulla storia ladina. Penso che qui si incontrano le tre realtà del Tirolo storico, che era un Tirolo trilingue, italiano, ladino e tedesco. E lo dico con un po' di, come si può dire, di orgoglio. Due punti che hanno detto i relatori per me sono importanti. Rodolfo Tajani ha detto che è una storia della montagna. Infatti si tratta di una popolazione di montagna, contadini. E un altro punto era, che ha detto von Hartungen, Il secolo XIX era un secolo calmo, infatti in questo libro non ci sono grandi gesta, non ci sono guerre, non ci sono grandi avvenimenti, è una storia di una popolazione di montagna, di contadini, della quotidianità, una storia semplice. Infatti anche quando abbiamo scelto insieme all'Istituto Ladino Cesar Dejean, che ringrazio anche per la pubblicazione, che ha sede a Colle di Santa Lucia, quando abbiamo scelto questo, la foto di copertina, mi è stata proposta di mettere una foto con due fodomi in costume tradizionale. Io ho detto, ma mi pare più il caso se mettessimo una foto di una famiglia fodoma, perché infatti questo libro parla delle famiglie fodome, delle famiglie ladine, di come vivevano, e si vede qua in questa foto erano famiglie numerose, mamma, papà e figli, qui ce ne sono sei, e era una famiglia neanche tanto grande, c'erano famiglie anche più numerose con 10, 15 figli. Divina Longo del Col di Lana e Colle Santa Lucia. Per raggiungere questi due comuni bisogna intraprendere un viaggio di 2 ore, a partire da Bolzano, fare 2 passi dolomitici. In linea d'aria sono solo 40 chilometri circa, vicini in fondo, eppure tanto lontani, perché tantissime persone, che io conosco anche personalmente, non sanno dove si trovano. Mai sentito, Divina Longo? Non so dove si trova, dall'altra parte del Pordoi. Ah, adesso so, su da Canazzei, Pordoi, ah, va bene, più o meno riesco a inquadrare il luogo. Questo era uno dei motivi che mi hanno spinto a inquadrare nei due comuni l'ambito geografico di questa ricerca. Nell'ambiente della storiografia locale ladina fodoma, i due comuni vengono messi in relazione con un avvenimento tragico, verificatosi nel Novecento, che è la Prima Guerra Mondiale, che a Livina Longo è incominciato nel 1914, in quanto faceva parte dell'impero austro-ungarico. Livina Longo ne uscì distrutto, il 90% delle case era stato bombardato, la popolazione al suo ritorno, la popolazione era andata profuga in Boemia, in Val Pusteria, in Val Badia, la popolazione della parte bassa nelle regioni d'Italia. Sono ritornati, hanno ricostruito il paese, però il raccordo e il ricordo è tanto radicato nella memoria collettiva dei fodomi che per decenni con la Grande Guerra si identificò tout court la storia fodoma. Ed ecco, questo è il secondo motivo. Volevo con questa ricerca aprire nuovi orizzonti alla storiografia locale, superare e andare oltre il ricordo di questi infausti avvenimenti e di riscoprire una nuova, vecchia storia, la storia dell'Ottocento. Questa vallata alpina si estende dal passo Pordoi verso sud-est, solcata dal torrente Cordevole, stretta e in gran parte impervia, dai ripidi pendii, boscosa nella parte bassa e prativa ricca di pascoli e di rocce, in quota. Questo li viene a lungo del Col di Lana, o la Val da Fodom in ladino, o in tedesco Buchenstein. Colle Santa Lucia, il più piccolo dei due comuni, non fa più parte della vallata principale del Cordevole, ma si trova in una valle secondaria, la Valle Fiorentina, ai pendii meridionali e orientali del Monte Pore. Entrambi i comuni nell'Ottocento fecero parte dell'unico distretto di Buchenstein, Landgericht Buchenstein, così il nome ufficiale. La popolazione si definisce ladina, i cosiddetti Ladins da Sauramont, oltre la montagna, chiamati così dalla popolazione in Valbadia, fanno parte di questi Ladins da Sauramont anche i ladini di Ampezzo. L'economia era fino a pochi decenni fa prevalentemente di tipo agricolo, erano contadini, oggi il principale settore economico è il turismo, basti pensare alla Sella Ronda, che tocca anche il paese di Araba. Il libro che viene presentato, è stato già penso accennato, è il risultato di un lavoro avviatosi nel 1999, ne scaturì la tesi dal titolo Sanità, poveri, istruzione pubblica, living along, dalla restaurazione al neoassolutismo 1815 e 1860. Ho consultato una serie di atti, documenti, all'archivio di Stato di Bolzano, ci sono gli atti del capitanato di Brunico, della reggenza di Bressanone, all'archivio di Stato di Belluno ci sono gli atti del giudizio di Livinalongo, una grandissima mole di informazioni e questa mole mi ha indotto a fare una scelta. Una scelta di scegliere alcuni argomenti. Ho scelto, ho fatto una sintesi, diciamo, nel quadro politico-amministrativo, che è il primo capitolo, seguito da elementi del quadro socio-economico e dai tre capitoli monografici sulla sanità, sull'assistenza ai poveri e sull'istruzione pubblica. Adesso vorrei inoltrarmi un po' nei singoli capitoli senza inoltrarmi troppo nei dettagli. Il primo capitolo parla, come dicevo, dell'assetto politico-amministrativo. Adesso io non ripeto come è nato il giudizio di Livinalongo, perché è già stato spiegato da von Hartungen. Tratto appunto del giudizio, di come è nato, di come si è formato, dei giudici, quali giudici operavano a Livinalongo, che erano giudici per lo più di madrelingua tedesca. Parlo delle vicinie, in ladino vicinanze, che sono delle strutture associative, famiglie, che formano una entità comunitaria. Ogni famiglia possiede campi, una stalla, un maso, un pezzo di bosco, e tutte le famiglie consorti sono allo stesso tempo anche proprietarie di terreni comuni. Pascoli, boschi, mulino per esempio, il toro era di proprietà comune, veniva dato da contadino a contadino, ogni contadino dopo un anno doveva darlo al prossimo e il prossimo contadino doveva occuparsi del foraggiamento, eccetera, eccetera. Dunque questa è una realtà comune con molti altri luoghi nelle Alpi, a Colle Santa Lucia. Queste vicinanze hanno un altro nome, sono le regole, come a Cortina d'Ampezzo. Tratto dei comuni. I comuni sono due, Livinalongo e Col di Lana e Colle Santa Lucia. Livinalongo è quello maggiore, Colle Santa Lucia è più piccolo come estensione e anche come numero di abitanti. Dei due comuni molto poveri, notoriamente poveri, come si può leggere negli atti, notoriamente poveri, conosciuti come tali, che avevano poche entrate, molte uscite, molte spese e dovevano coprire queste spese con imposte addizionali in più, tasse che dovevano pagare i sudditi, che a quell'epoca si parlava di sudditi. Interessante è stato anche il comportamento elettorale dei Fodomi. Ho trovato un documento che parla dell'elezione del comune di Livinalongo e di Colle Santa Lucia del 1850, dunque siamo subito dopo il periodo del 48. E si sa, nel 48 ci sono stati questi moti da parte delle forze liberali. I Fodomi hanno dovuto eleggere il consiglio comunale di 2150 abitanti a Livinalongo. Il corpo elettorale era composto di 710 votanti, sono andati a votare in 191. 27%. A Colle, su 212 del corpo elettorale, sono andati a votare in 32, 15%. Al giorno d'oggi non sarebbe valido. A quell'epoca non si guardava probabilmente tanto ai numeri, in quanto, primo, era estate, i Fodomi erano impiegati nei lavori sui campi, e poi probabilmente, come risulta anche dalle fonti, erano poco avvezzi a questo lavoro amministrativo che ha da, che dovevano stilare documenti ufficiali in italiano, che non era la loro lingua, che imparavano a scuola ma non era la loro lingua. E tutte una varietà di incombenze. Poi passo racconto sulla religione, sulle cappelle, le chiese, beneficiati, le fraternite e infine la lingua ladina. All'epoca non c'era questa coscienza che si può ravvisare al giorno d'oggi. I ladini nell'Ottocento erano più o meno gli abitanti della Val Badia. Venivano identificati con i ladini. I Fodomi stessi avevano, diciamo, si potrebbe dire poco rispetto per la propria lingua, infatti non la vedevano come una lingua, ma come scrive una donna Fodoma, il Fodoma è un italiano affatto corrotto e appena intellegibile. È una signora che ha fatto il corso di levatrice a Innsbruck. O Favai, di cui esistono due manoscritti a Innsbruck, al Ferdinandeum, che scrive, è corrotto, misto di molte voci barbare e straniere. Dunque è un concetto non molto chiaro di lingua o di dialetto, neanche un dialetto si potrebbe definire. La parlata era ladina, la popolazione parlava il Fodom, ma nel giudizio il giudice, nei rapporti con le autorità di Brunico e di Innsbruck, doveva parlare e corrispondere in tedesco. Il comune con il giudice corrispondeva in italiano, rare volte in tedesco, e la popolazione parlava, nelle famiglie si parlava il ladino, nella forma locale. Il secondo capitolo si occupa degli elementi del quadro socio-economico, politico e culturale. Qui tratto una serie di argomenti di vario tipo che spaziano dal clima, alla condizione di vita, all'economia, al carattere della popolazione. Anche qui solo alcuni spunti. Sulle vie di comunicazione, ha già detto Rodolfo Tajani, la situazione era molto problematica. Non c'erano delle strade, c'erano solo dei sentieri. In parte nemmeno carreggiabili, dovevano da Pieve di Longo per raggiungere Corvara fare un passo a piedi, senza carro, trasportare le merci sulle spalle o con un animale, ma senza poterlo cavalcare, e il tragitto da Livina Longo fino a Brunico, che era il centro politico del circolo, c'era un cammino di 13 ore. Dunque in 2 giorni ce la facevano, però era una grande distanza. Gli edifici a Livina Longo erano di tipo agricolo, il maso con annessa la stalla o il fienile, la parte inferiore era in muratura, pietra, la cosiddetta ciauna de mur, che sarebbe la cantina, e la parte superiore in legno. I vani interni erano separati da tramezzi in legno, che non salivano fino in cima, ma avevano sempre uno spiraglio aperto. Dunque, con gli spifferi si può anche pensare d'inverno. Infatti l'unico vano che poteva essere scaldato era la cucina e al massimo la stube. Vivevano in una casa, in un maso, più famiglie, diverse famiglie. In un maso a Colle, per esempio, gli inquilini erano 37 di diverse famiglie e la cucina era una sola. La stube era una sola. Ognuno naturalmente aveva la sua camera da letto, però queste due camere, queste due stanze erano comuni a tutte le famiglie. Si può pensare durante l'inverno, durante la stagione rigida, fredda, che ci sono state anche delle relazioni extramatrimoniali o prematrimoniali. Sono stati abbastanza consistenti le nascite illegittime, anche per questo fatto, convivevano più famiglie in una casa, ma non destava preoccupazione perché erano più o meno in media dell'intero distretto, dell'intero circolo. Una breve statistica demografica: gli abitanti erano da 2.600 a 3.000 abitanti circa, oggigiorno sono 1.800, dunque un forte calo, da un lato causato dalla prima guerra mondiale, e poi molti sono emigrati nelle vicine valli, Pusteria, Valle Isarco, Bolzano, molti sono a Bolzano, per motivi di lavoro, perché i figli più che non restavano in valle, perché il maso e il terreno, il lavoro da contadino veniva svolto da uno soltanto, gli altri dovevano lasciare la casa paterna, anche se a Livio Longo non c'era l'istituzione del maso chiuso, non c'era, non esisteva, cioè veniva adottato ma non per legge.